tante sfumature nella vita dentro me si annidano. Appunti sulla mia bacheca dei pensieri e fotogrammi che ora passano. Momenti già vissuti come un déjà vu, ricordi sfocati tu per tu con chi da lassù voleva lasciare qualcosa da trasmettere a noi qua giù. Persone già incontrate nel mio cammino, cose già fatte, per quale motivo? Riprese di un passato negativo, coi sui tanti bivi mi ha segnato il destino. Vivo, cammino, respiro, adesso tutto attorno a me si genera tra lacrime e spade che combattono una guerra in questa era che mi soffoca. Troppe persone scomparse che scappano verso i sogni quale non arriverà, e nessuno mai saprà cosa mai accadrà in questa nuova civiltà. Rimangono solo momenti e foto nel cuore di posti, di cose speciali da ricordare, da immaginare, per poter sognare di tornare a respirare e ripartire, magari con pensieri migliori per tutti quanti. E comunque in tanti si aggrappano ai propri sogni con la speranza che qualcuno si accorga di loro e non li schivi come fa un aereo quando vira in volo. Non puoi dimenticare, no. Non devono svanire mai. Luci, ho visto ombre, ho visto l'uomo che ho di fronte addormentarsi in mezzo a tanta gente. Così sto con sofferenze e ricordi, ma vado avanti ai bordi della foto del resto. Siamo in tanti, cerca pure il tuo Dio e poi i tuoi santi. Giustifica i tuoi sbagli, fasci di luce diventano bagni, serpenti assonagli, ma senza suono resto lontano da loro, anche se resto da solo. Abbandono i ricordi che mi turbano, pensieri urlano, voci nel coro che si burlano. In questo tempo occhi soltanto per me stesso, qualche successo, ma del resto fa lo stesso. Una foto nel cuore con una nuova prospettiva, e penso che la mia anima si sente ancora più viva e denso. Il sangue non coagula e lo specchio non fa più riflesso, il suono resta sempre in basso e fuori da un eccesso. Fermano il tempo cambiando colore a tutti i giorni neri. Il freddo fuori contagia anche l'interno. Emozioni si congelano, son preda dell'inverno. Istanti riflessi dentro d'un'immagine che poi stappati in cuore porta solo alle lacrime. Ogni ricordo rappresenta un granello, piccole parti del deserto del cervello. Ricordi di amore, ricordi di imprese come quella dei tuoi, per pagare le spese, per arrivare a fine mese. Ha cambiato mestiere, ma cambiando mestiere hanno fondato molte imprese. Come piazzarsi davanti ad uno specchio, si cercano parti nuove per un modello vecchio. Ricordo eterno e il petto duole, capiamo solo guardando dentro che sono foto nel cuore.